mama, mama, mama, no mi conosci più, o ti somiglio meno io, o sei cambiata tu. Oh mama, mama, mama, sapevo che eri qui, non è la prima volta che cercavo di incontrare te. Grigio fazzoletto, i tuoi capelli e vestiti sempre quelli, ma il tuo viso mi sembra più bello. Chiusa nel tuo mondo, io non sapevo giudicare le galline che nutrivi e non volevi ammazzare. Oh mamma, mamma, mamma, dimmi a casa come va. È vero che il più piccolo è all'università. Soldi, no, non ti devi vergognare, il coraggio e la paura io me li faccio pagare. Oh mamma, mamma, mamma, non mi conosci più, o ti somiglio meno io, o sei cambiata tu. Soldi e dagli al povero se vuoi, ma questa mia coscienza libera, oh mamma, mamma, mamma. In cinque in una stanza io dissi non ci dormo più, lo schiaffo che mi ha fatto male all'anima non me l'hai dato tu. Oh mamma, mamma, mamma, Madonna tu non sei, ma è strano come tu mi leggi l'anima e leggere non sai. Grigio fazzoletto, i tuoi capelli e vestiti sempre quelli, ma il tuo viso mi sembra più bello. Oh mamma, mamma, mamma, Madonna tu non sei, e col tuo sacrificio al massimo un giorno lo diventerai. Prendi questi soldi e dalle a un povero se vuoi, ma questa mia coscienza libera. Oh my.